Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Claudio Marenzi, 54 anni, due figli, campione di sci nautico uno e di sci alpino l'altro. Dal 2007 guida l'azienda di famiglia Erno. In meno di 10 anni ha portato il fatturato da 7 a 70 milioni. Presidente del sistema Moda Italia, ieri ha ricevuto da Mattarella il titolo di Cavaliere del Lavoro. Secondo lui le idee migliori vengono guardandosi intorno, e intorno a Lesa, suo paese d'origine sul Lago Maggiore, c'è soprattutto tanta acqua, così ha creato impermeabili e piumini di lusso. Appassionato di sport e di arte contemporanea, ma con una particolarità: preferisce comprare i quadri che non gli piacciono. Claudio Maezza, perché sceglie i quadri che non le piacciono? I quadri che non mi piacciono sono quelli meno commerciali. Cioè l'investimento è più sicuro, diciamo. A lungo termine sì. Ah, ecco, va bene. E quali sono quelli che le piacciono meno? In genere che caratteristiche hanno? Sono sgradevoli. Sgradevoli, un po' masochista, insomma, mi piace soffrire. Sì, nel breve sì, ma poi nel lungo migliora. Senta, ma se una cosa le piace al primo colpo, la insospettisce allora? Sì, per il concetto che se mi piace subito potrebbe stancarmi. Ma vale per tutto? Quasi tutto. Anche le donne? No. No. Lei è uno sportivo. Che cosa ha imparato dallo sport che le serve nel lavoro? Lavorare per obiettivi. E soprattutto che quando vinci è l'inizio e quando perdi è l'inizio lo stesso. Ah, appunto. Bisogna saper perdere, insomma. Bisogna saper perdere, ma bisogna anche saper vincere. Si impara, sì, certo. Ma diventare Cavaliere del Lavoro, ha vinto ieri, è stata un'emozione particolare. Mattarella l'ha fatto Cavaliere del Lavoro. Sì, molto. Molto. Perché? Emozione. Perché credo che sia un riconoscimento al proprio impegno. Mi è sembrato di essere arrivato in qualche modo. E poi è formale. È una cosa formale. Mi piace. Sì, sono stato militare, per cui i segni, la bandiera, mi ha dato la medaglia. La medaglia. Ma ha festeggiato? Sì, ho festeggiato ieri sera con tutti i miei collaboratori. Senta, lei ha un rapporto speciale con l'acqua perché vive sul lago, l'abbiamo detto, e lo ama il lago, e l'acqua è l'elemento in cui si basa la sua azienda di famiglia. A Erno, che prende il nome del fiume Erno, ma perché avete messo l'H davanti? Mio padre, per centrare il marchio meglio, erano 4 lettere, con l'H sono 5, e poi probabilmente per dare un'idea di internazionalizzazione, era il 48. E infatti nel 48 suo padre Giuseppe Marenzi, da impiegato di un'industria di aeroplani, trova un lavoro in un'industria di impermeabili. Ecco, ma cosa c'entrano gli aeroplani con gli impermeabili? Per fare la miscela degli aerei serviva l'olio di ricino. Per rendere impermeabili i cotoni che si usavano per fare gli impermeabili serviva l'olio di ricino. Per cui lui conosceva tutti i depositi. Quindi per impermeabilizzare il cotone si usava l'olio di ricino. Sì, e oggi che cosa usate? Beh, oggi ci sono tantissimi procedimenti, diversi, insomma. Molti. Senta, dottor Marenzi, ma dal 48 agli anni 80 voi siete sempre cresciuti concentrati sul vostro marchio. Poi dagli anni 90 in poi avete iniziato a produrre per altri brand. Perché? Abbiamo iniziato casualmente. Comunque negli anni 80 si formavano i grandi marchi della moda che venivano o dagli accessori o dallo stile puro, non ad aziende. Noi invece eravamo una grande azienda, avevamo 650 persone, per cui questi cercavano sfoghi produttivi sia a livello qualitativo che produttivo. Noi eravamo lì. Però poi vi siete pentiti perché siete tornati a investire sul vostro marchio. Alla lunga ci siamo pentiti perché non sei più proprietario della tua strategia aziendale. Sei sconosciuto sostanzialmente. Sei sconosciuto e sei in mano agli altri. E quindi è questo che vi ha spinto a cambiare, a ritornare sui vostri passi. Quello che ci ha spinto è che negli ultimi anni, dal 2000 al 2005, abbiamo cominciato a perdere clienti perché delocalizzavano, volevano dei prodotti a minor costi, e per cui noi non eravamo più competitivi, per cui dovevamo riportare il marchio sulla... Senta, ma come nasce oggi una giacca Erno? La prima domanda che ci facciamo, e quello che dico sempre al mio staff di design, è chiedersi sempre il perché. Non è solo moda, noi facciamo moda ovviamente, certo, ma nasce sempre attraverso un'esigenza, perché noi, essendo degli impermeabilisti, siamo funzionali. Certo. I nostri sono capi funzionali, l'acqua. Per cui il perché deve nascere. Quando piove, insomma, la metterei o non me la metterei? Questo è il punto. Deve metterla per la pioggia, per il vento, per il freddo, per il caldo. Cioè deve esserci sempre un motivo. Senta, ma le vostre giacche, invece di essere cucite, sono termosaldate a ultrasuoni. Che differenza c'è? Vuol dire che non ci sono i buchi delle cuciture, per cui sono più impermeabili. Quindi sono più impermeabili delle altre. Sono più impermeabili, sono più leggeri, hanno meno strati. Ah, e le piume dei piumini da dove arrivano? Le piume arrivano buona parte dall'Italia, dalla Lomellina, e poi parte dalla Polonia e parte dalla Siberia. No, glielo chiedo perché lo scorso anno Report aveva fatto un'inchiesta sui piumini, sull'origine delle piume, abbastanza impressionante, attaccando il marchio Moncler. Lei, come presidente del sistema Modo, aveva commentato così, queste sono le sue parole: stanno facendo alla moda quello che è stato fatto alla nautica, cioè... Beh, allora, prima di tutto c'è stata una mistificazione. Fatto 100 il costo, il prezzo di un'oca, il 97% del valore è carne, per cui la piuma è uno scarto totale. Non ci sarebbe un'oca in meno uccisa se non dovessimo più usare le piume, per cui è un non problema. Cosa stanno facendo alla moda? Cosa vuol dire la moda e la nautica, insomma? Perché ci parallelo? Ci stanno demonizzando e per cui rischiano di far perdere alla moda la parte produttiva, per cui la filiera. E per quindi cui voi che cosa avete fatto? Lei è il presidente del sistema Moda Italia, e che cosa avete fatto in questo senso? Ma qui noi stiamo cercando di salvare e di evidenziare quanto sia importante la parte manifatturiera, la parte della filiera, che è veramente il grande asset italiano. Senta Marenzi, quanto conta il Made in Italy all'estero? Tantissimo. Sì, perché? Perché c'è un'idea del manufatto italiano di grandissima qualità. A prescindere. Però dell'introduzione dell'obbligo del Made In, che dovrebbe essere quello che tutela per i paesi europei, insomma, più o meno se ne sono perse tracce. Come mai? Se ne perde traccia perché c'è tutta una parte d'Europa che non lo vuole. Non lo vuole perché lo teme. Lo teme perché non sono più dei manifatturieri, anche se dicono di esserlo, la Germania in testa, ma sono degli assemblatori e assemblano dei materiali e degli accessori che sono comunque fatti da altre parti e non vogliono questa chiarezza che invece vogliamo noi. Ma anche noi assembliamo? Noi assembliamo molto meno. Molto meno. Ma il Made in Italy dovrebbe essere tutelato di più, quindi? Sì, dovremmo... Ma come? Dovremmo spingere su questa lotta che comunque ci vede perdenti. D'altra parte stiamo cercando anche di trovare un modo di poterlo evidenziare anche a livello nazionale. Senta Marenzi, però c'è chi la pensa diversa da lei. Tornando a Ruffini, appunto, il patron di Moncler, lui ha detto: il Made in Italy è un concetto che non mi appartiene, dice lui. Non mi interessa come marchio, la produzione può essere buona o no, non ha bisogno di etichette. Io penso che ci stia ripensando in questo momento. Comunque per un certo tipo di produzione è così. Ma sull'alto di gamma, l'eccellenza, c'è un cambio totale di marcia. Il Made In è un valore aggiunto. Assolutamente, è un valore aggiunto, è un valore reale. Reale. Perché i nostri operai, i nostri hanno una marcia in più agli altri. Pensano a quello che stanno facendo. C'è la storia. Lei però in un'intervista al giornale dello scorso novembre ha detto: io produco il 60% sul territorio nazionale, il resto in Romania. Il vero problema del Made In è un altro. Qual è il vero problema del Made In allora? Che sia certificato, il discorso di prima. Per cui dire, bello. Quando io dico che faccio il 60% in Italia e il 40% in Romania e scrivo che è fatto in Romania, mentre io scrivo che quello è fatto in Romania, certifico e esalto il 60% certo che faccio in Italia. E così deve essere fatto. Ma è vero che un'ora di lavoro in Italia costa 16 volte di più che in Cina? Costa 16 volte più che in Cina. E questo è il problema? Questo è il grande problema. Come... E in Romania? Quanto in Romania costa 8 volte. 8. Ma il grande problema è che è quasi il doppio di quello tedesco ed è 4 volte più alto di quello americano. Per cui non è solo il paese del terzo mondo o in crescita, ma sono anche nel paese mondo industriale. Maturo. Senta, ma che cosa fa fare lei in Romania delle sue giacche? facciamo fare tutto il primo prezzo. Tutto il primo prezzo. Cosa vuol dire? Cioè tutto quello che sta sotto una certa cifra, che sono i prezzi di entrata delle nostre collezioni, viene fatto in Romania. Non potrebbe essere fatto in Italia perché non riuscirebbe a sostenere un costo. Senta Marenzi, qualche anno fa lei aveva lanciato un allarme dicendo il problema maggiore che si sta delineando all'orizzonte è sempre più una crescita di fatturati a fronte di una diminuzione dei posti di lavoro, un processo inevitabile. Sì, purtroppo in Italia sì, perché lavorando sulla qualità e sull'eccellenza si produce di meno e è più alto valore aggiunto. Ma quindi innovazioni e posti di lavoro fanno sempre di più a pugni? Beh, in molti settori sì. Nel nostro devo dire che riguardando il discorso di termosaldature, termonastrature, no, perché il processo è sempre manuale. Si è una macchina, una persona. Sì. Si è stabilizzato, quindi sì, diciamo in un certo modo. Nell'abbigliamento sì. No, glielo chiedo perché invece si calcola che con l'innovazione tecnologica in America, per esempio, si sono persi dal 40 al 60% di posti di lavoro, ma posti di lavoro persi che non torneranno più. Quindi, insomma, innovazione può voler dire disoccupazione. In quel caso sì, perché a mio avviso non si... L'innovazione non è sulla manifattura, ma è su qualcosa di diverso, su qualcosa di intangibile. E per la sostituzione dell'uomo con la macchina. Diciamo che la sostituzione dell'uomo americano con un uomo che forse è cinese o vietnamita, che ha prodotto quella macchina. E per cui loro lì si tengono la parte software, che hanno bisogno di meno persone, e invece la parte hardware, che però fondamentalmente però fa via le persone. Però anche l'America sta un po' reindustrializzando, perché questa cosa qui l'ha capita. L'unico paese che sta facendo veramente le politiche di reshoring già nella versione di Obama è l'America. Ma il Job Act secondo lei sta funzionando? Sì, sta perché? Funzionando. Sta funzionando per ma per funzionerà, mettiamolo in un altro modo, funzionerà anche quando finiscono gli incentivi? Meno. Senta, Trump sarà il Robin Hood dell'industria tradizionale contro quella digitale? Lo prevede lei? Potrebbe essere. Quindi nella Silicon Valley potrebbero aver paura, meglio? Beh, mi sembra proprio di sì, ce ne hanno di paura in questo momento e forse ne hanno ragione. Senta Marenzi, ma la vittoria di Trump può cambiare qualcosa nello scenario economico anche italiano, secondo lei? Beh, lo sta già cambiando. Sappiamo che il TTIP è stato bruciato. Diciamo, bruciato, però penso che, visto che è un imprenditore, potrebbe cambiare idea o comunque rivederlo. Però rimetterà i dazi con l'Europa come ha annunciato? Guardi, i dazi sono già alti. Nella moda, nonostante i dazi che ci sono, andiamo ancora bene. Per cui dire peggio di così penso non può alzarli ancora. Non può alzarli. Senta, l'Europa però per adesso sembra immobile, ha reagito con parole in libertà, quelle di Juncker. Che effetto le hanno fatto quelle parole? Sembrava offeso perché Trump non gli ha telefonato. Guarda, grande sconforto. Non è modo di affrontare il problema, assolutamente. Senta, ma Renzi ha tolto la bandiera dell'Europa dal suo studio. Ha fatto bene? Non credo. No, perché? Perché noi dobbiamo sentirci tanto italiani quanto europei. Ma che tipo di Europa può affrontare la nuova America di Trump, appunto? Che tipo di Europa? Cosa deve cambiare? Dovrebbe incontrare un'Europa più unita, un'Europa con l'orgoglio di essere europei, che però credo che sia ancora lontano. Troppa burocrazia. Ma è un'Europa tedesca, insomma. È un'Europa troppo tedesca, è un'Europa che a mio avviso non ha ancora l'orgoglio dell'identità unitaria. Ecco, senta Marenzi, ma intanto in ogni caso un imprenditore conservatore come Trump ha battuto un avvocato progressista come la Clinton. È meglio per gli Stati Uniti secondo lei? Nel lungo periodo forse sì. Senta, torniamo in Italia. Poche settimane fa l'Espresso è uscito con una copertina fortissima. Il titolo era "Chiuso per fine industria". Come si può frenare questa deindustrializzazione del paese? Forse è una grande responsabilità di noi imprenditori, una classe di imprenditori a mio avviso che non è sufficientemente coraggiosa e Cioè dipende invece di rischiare. Sì, si vuole, è troppo calcolatrice. Troppo calcolatrice. Rischio troppo per quello che porta a casa, invece bisogna rischiare e basta. E basta. Ma in questi ultimi anni sono state vendute più di 1000 aziende per 60 miliardi di euro. Vuol dire che appunto il sistema non tiene. Vuol dire che non tiene in questo termine. Cioè, guardiamo, appunto, ci vuole questo rischio. Guardiamo troppo la parte economica. Insomma, imprenditori, datevi da fare. Questo è il messaggio, assolutamente. Lavora e divertiti. Il modello italiano è fatto di piccole e medie imprese. Sono morte con la globalizzazione? Moriranno? Io credo di no. No, le faccio sentire cosa ha detto un grande manager italiano, Guerra, a proposito delle piccole e medie imprese. Il tema vero è che quando noi parliamo di medie e piccole aziende, parliamo rispetto alla media europea di microaziende. Le microaziende purtroppo in questo mondo non hanno più significato. Ecco, come si reagisce? Le microaziende sono dei fornitori o anche in molti casi subfornitori. Si reagisce con un'idea di filiera, con una capacità di chi sta a valle, per cui di chi è cliente, di capire che non può farcela, anche se è una grande azienda, senza la microazienda, e per cui in qualche modo sostenerla. Senta Marenzi, il piano industriale 4.0 del ministro Calenda sta andando nella direzione giusta secondo lei? Va proprio in questa direzione. Aiuterebbe le filiere a compattarsi e più che a compattarsi a velocizzarsi, a creare quei contatti, quelle informazioni che devono essere distribuite su tutta la filiera in un cambio di paradigma, perché partirebbero dal mercato a risalire. Quindi come è un salmone. Buona cosa. Assolutamente. Buona. Sì. Senta, il presidente Renzi ha presenziato all'inaugurazione di due Fashion Week vostre. Cosa ha significato per voi, cioè per il settore? Tantissimo. Perché? Prima di tutto un orgoglio. Il fatto che ci siamo sentiti presi in considerazione, cosa che la moda normalmente non lo è, perché è più vista come un qualcosa di effimero. Ma voi cosa vi aspettate dal governo? Non ci aspettiamo niente. Molto, ci aspettiamo tanta considerazione. Tanta considerazione. Ma Renzi ha uno stile, secondo lei, visto dal suo punto di vista di creatore di moda? Penso di sì. Sì? È un tipo elegante, secondo lei? No, io penso di... Io penso insomma, di... cosa gli cambierebbe? No, diciamo che quello che è una informalità formale. Mazza, che sembra un democristiano. Lo userebbe come un modello per le sue giacche? Sì. Gli fa addosso. Senta, e Agnese, la moglie, ha più stile del marito? È più formale, direi. Ma chi detta lo stile in Italia? Lo stile lo dettano gli italiani. Noi siamo estremamente... Cioè la strada, dice. Sì, siamo molto preparati su questo. Ma c'è qualcuno che le piacerebbe vestire e che invece non c'è riuscito? Guardi, no, a me piacerebbe vestire più possibile persone, più persone possibili, quello sì. Quello sono convinto, ma uno in particolare no. Non c'è qualcuno in particolare. Va bene. In un'intervista qui da noi, Marco Boglione, fondatore di BasicNet, ha detto: l'Italia è il miglior showroom del mondo e resta cruciale per capire se un prodotto va o non va. È d'accordo? Assolutamente. Assolutamente sì. Un brand italiano che non ha mercato in Italia non è un brand. Ci sono due mercati che sono così, Italia e Giappone. Italia e Giappone, ecco. Quindi siamo noi italiani... una delle due icone dello stile, insomma. Sì, noi siamo quelli naturali, i giapponesi sono didascalici. Didascalici. Senta, le faccio sentire uno spezzone del film Il Diavolo Veste Prada, senta qua. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è... turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato Yves Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. E alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual, dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro. È un po' così? Sì, è così. È una bella descrizione di come trapassa la moda, di come questo arriva. Questo è storicizzare qualcosa che poi viene per caso. Viene per caso, ma poi è così. Poi uno ci fa il ragionamento sopra e dice ok. Ecco, ma il mondo della moda, quanti soldi e posti di lavoro muove oggi? Di quanti soldi parliamo? Allora, la moda in Italia globalmente è... 90 miliardi. 90 miliardi per 700.000 persone. 700.000 persone che lavorano, quindi una quota del PIL significativa in qualche più modo. Del 5%. E abbiamo una bilancia commerciale positiva per 18 miliardi, per cui perché è un settore estremamente portato all'export, per cui giustamente dobbiamo essere in considerazione, non è un siete non in Italia nel mondo per davvero, insomma. Assolutamente, lo siamo due volte. Due volte, cioè? Lo siamo sia per immagine e per bandiera e poi anche per prodotto e fatturato. Senta, Bernardo Caprotti, il fondatore di Esselunga, nel suo testamento ha scritto che l'Italia è un paese cattolico che non tollera il successo. Lei è d'accordo? Sì. Sì? Siamo invidiosi. Siamo invidiosi. C'è molta invidia nel nostro mondo? Troppa. Troppa. Ma c'è un imprenditore della moda che lei invece che invidiare ammira? Sì. Chi è? Gildo Zegna. Gildo Zegna, perché? Perché in un'azienda familiare, mantenendo la famiglia, ha fatto un grandissimo lavoro in questi ultimi 10 anni. E Cucinelli le piace? Sì. Ma è più bravo di lei? Per adesso sì. Sì, Senta, ma Cucinelli è più bravo anche perché è andato in borsa, lei non ancora... Non ci vuole andare in borsa? Non ho ancora le dimensioni, c'è una dimensione minima a mio avviso per andare in borsa. Noi siamo quasi a metà del guado. E quando arriverà tutto il guado attraversato ci andrà? Sì, perché se utilizzato come mezzo è fondamentale per l'azienda. Per svilupparsi. Per svilupparsi e per far sì che poi l'azienda non passi come quelle che diceva prima lei... tra quelle che devono essere vendute. Certo. Senta, la sua azienda, come tantissime del settore, hanno puntato moltissimo, l'ha detto, sull'export. Nel 71 voi già con la Erno aprivate una boutique a Osaka. Perché in Giappone? Per quella ragione che diceva prima? Sì, diciamo che allora era stato più casuale. Mio padre è andato per la prima volta in Giappone nel 67 attraverso un importatore di ombrelli. Sempre la pioggia al vostro... sempre la pioggia di mezzo. Dove piove voi di mezzo. Per cui è stato un po' casuale. Però era un mercato che era, ripeto, estremamente sofisticato come quello italiano. Solo con più diciamo in che ricerca. Cosa assomiglia il mercato giapponese a quello italiano? Proprio in questo. Nella sofisticazione, nell'attenzione ai particolari e alla qualità e allo stile. Ma quindi voi in qualche modo personalizzate la vostra collezione a seconda dei paesi dove vendete oppure no? Questo lo facevamo nel passato. Adesso in questi ultimi 10 anni no. Ma è vero che le grandi griff del lusso si muovono con molta cautela sull'e-commerce? Sì. Anche voi? Noi addirittura non la facciamo. Ma perché non la fate? Non ci credete? Prima di tutto perché stiamo crescendo ancora molto sullo sale offline, per cui non c'è bisogno. Secondo, a mio avviso, essendo distribuiti da multi brand, per cui da clienti, non vogliamo fare della concorrenza sleale nei loro confronti. Senta Marenzi, ma lei ha detto che i problemi di un'azienda cominciano quando i competitor smettono di copiarvi. Lei la copiano ancora? Sì, e di questo sono molto felice. Sì, e lei copia qualcuno? Non più. Non più? Chi copiava prima? Nella gestione di prima si guardavano tutti gli altri. Adesso... No, me ne dica uno che copiava, che gli piace, dice quello lì, prima o dopo lo prendo. Burberry. Ah, va bene. Senta, oggi si dice che conta di più una fashion blogger di un direttore di Vogue, per esempio. È vero o no? Non credo proprio, comunque sono molto importanti, troppo. Troppo importanti. Troppo perché? Perché sono improvvisate, perché sono facilmente, come dire, orientabili? Perché non dovrebbero essere, ma poi di fatto lo sono, rientrano in un sistema, stanno diventando anche molto costose e per cui innaturale e alla fine... Questo li ammazzerà. Senta, il suo marchio è posizionato appunto nel settore del lusso. Ma cosa si intende per lusso? dovrebbe essere qualcosa di rarefatto. Ma cioè è il prezzo che fa il lusso? Beh sì, perché diciamo che più è alto il prezzo e più è difficile l'acquisto, per cui però direi... il lusso è quello, solo il prezzo? E la qualità, di conseguenza. E la fantasia nel creare, nell'inventare cose nuove, le dice che copia sulla strada. Sulla strada magari trova delle cose meravigliose che costano poco, ma sono lussuosissime. Beh, il lusso è uno stato, è uno stato d'essere, per cui dire no, lui alla fine il maggior lusso è il tempo, come si dice in questo momento. Però nella moda e nel, diciamo così, nel, sono i soldi, sono sì, i quello soldi. Che costa. Senta Marenzi, ma è più lussuoso per lei sciare in montagna o fare sci d'acqua, visto che fa tutte e due? Sciare in montagna. Sì, è più bello. Mi piace di più, mi piace sentire la neve fresca sotto lo sci. Senta, diciamo che ama la montagna. Ama il lago, però parlando con lei prima ho capito che abbiamo un altro amore in comune molto importante, una vecchia signora, sbaglio? Sì, assolutamente. Come mai la Juve? Da dove arriva? Lei è del lago, cosa c'entra? Com'è che si è innamorato della Juve? Mio padre. Suo padre? Ah, sì. Tramandato. Tramandato come io ho tramandato ai miei figli che sono Juventini. Sono tutti juventini? Assolutamente. Obbligati? Beh sì, in genere all'inizio è una decisione, lavaggio del cervello giovanile, del cervello, insomma, quindi speriamo che questa Juve, anche se gioca così continui a vincere, insomma. Sì, l'importante è che vinca. Va bene. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 SMS pubblici. State ascoltando un programma offerto da Suzuki Baleno Hybrid, il modo più semplice di guidare un'auto ibrida. Mix 24. Beh, Mario, un titolo a questa intervista di Marenzi? Non lo conoscevo, bel personaggio, uno che darà filo da torcere. Darà filo da torcere. Tu, Pietrangelo? Non solo moda, ma piccioli cerulei. Mazza. Piccioli cerulei. Intanto il referendum costituzionale si avvicina, il dibattito è acceso e noi, come sempre, ascoltiamo le ragioni dei favorevoli e dei contrari. Sì o no? Claudio Velardi, giornalista, esperto di comunicazione politica. Ecco, Velardi, lei è per il sì al referendum, perché? Beh, perché è da più di 30 anni che si cerca di riformare la Costituzione e l'unico scopo di fare funzionare meglio le cose. Ora uno non ci è riuscito, quindi direi che opporsi non ha senso. Si dice che la riforma è pasticciata, ma a me non pare che sia così, perché la trovo piuttosto organica. Modifica il bicameralismo paritario, riduce dei costi, rimette nell'ordine giusto il rapporto tra Stato e poteri locali, è passata più e più volte in Parlamento, insomma la riforma c'è. Ecco, in ogni caso aggiungerei anche che il budino si mangia per vedere se è buono, insomma. Ecco, ma qual è il punto più qualificante del suo sì? Certamente la riforma del titolo quinto, cioè del rapporto tra Stato e Regioni. Oggi, per dirne una, le decisioni sull'energia, che è un grandissimo tema su cui è in corso una competizione mondiale durissima, le decisioni sull'energia si prendono nelle regioni ed è una cosa assurda. Non abbiamo la possibilità di avere una politica unitaria e nazionale sul turismo, dove invece abbiamo tante politiche spezzettate, spesso clientelari, fatte nelle regioni. Nella sanità abbiamo insopportabili disparità di trattamenti tra regione e regione. La riforma del titolo quinto è veramente, a mio avviso, la sua chiave. Ecco, ma qual è la ragione del no invece che le sembra interessante, sulla quale si potrebbe o si sarebbe potuto lavorare? Devo usare una certa generosità, diciamo. Sì. Un argomento interessante del no nel merito della riforma, però sono certo che dopo bisognerà lavorare insieme su alcune cose importanti. Quella la più importante di tutti è la configurazione del nuovo Senato, che dovrà diventare un'istituzione nuova e importante. Un conto sarà se nel Senato ci saranno personalità effettivamente rappresentative degli enti locali, un altro conto è se invece ci andranno, come dire, le scartine. Ma questo si deciderà dopo e si deciderà insieme. Senta, crede che alla fine si riuscirà a trovare un accordo sulla legge elettorale? Oramai mi sembra difficile. C'è, nel senso che pare c'è un impegno a rivederla, dubito naturalmente che si possa fare prima del voto. direi che è abbastanza certo che dopo tutti i protagonisti si siederanno intorno a un tavolo e decideranno come e su quali punti migliorarla, ma anche a questo fine è bene, a mio avviso, che vinca il sì, perché in caso contrario invece siamo da capo a 12 e quindi dovremo ricominciare con una difficilissima discussione su una nuova legge elettorale da fare ad hoc. Sì o no, sì o no, sì o no. Anna Falcone, avvocato, vicepresidente del comitato per il no. Ecco, avvocato Falcone, perché no per lei? Perché questa è una riforma che promette molto e attua veramente molto poco. In particolare si dice che si supera il bicameralismo paritario, mentre non è così. Il Senato continua ad esercitare moltissime competenze e a poter rallentare l'iter di formazione delle leggi. Ma soprattutto non corrisponde al vero il fatto che si costituisce una Camera delle autonomie, perché i nuovi senatori non sono innanzitutto legati ai loro territori, perché godono del cosiddetto divieto di mandato imperativo, ma non potranno decidere in nessuna di quelle materie strategiche, come infrastrutture o anche in materia ambientale, che hanno invece un impatto molto forte sul destino delle regioni e sui diritti appunto dei cittadini di quelle regioni. Ecco, ma qual è il punto più qualificante del suo no? Il mio no si fonda fondamentalmente sul fatto che questa è una riforma che mira surrettiziamente a modificare gli assetti democratici del nostro paese, a cambiare quella che viene detta formalmente la forma di Stato. Si passa da una democrazia parlamentare a un premierato assoluto, in cui chi vince le elezioni non solo controlla il Parlamento, indicando una serie, circa il 60% dei parlamentari della maggioranza verranno comunque indicati tramite il sistema della lista bloccata, ma oltre a questo condiziona l'elezione del Presidente della Repubblica, dei membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogoverno dei giudici, quindi di fatto come se neutralizzasse quei poteri di controllo che devono in ogni democrazia controllare che il potere esecutivo venga esercitato conformemente alla Costituzione. Ecco, e qual è la ragione del sì che invece le sembra interessante, sulla quale si potrebbe lavorare? Le ragioni del sì si fondano su una esigenza di ammodernamento che tutte le Costituzioni sicuramente devono prendere in considerazione, perché le Costituzioni devono essere Costituzioni anche del loro tempo. Certo. Il problema è che degli obiettivi che a una prima lettura possono sembrare degli obiettivi di buonsenso sono degli obiettivi che in realtà celano altri obiettivi che sono degli obiettivi assolutamente contrari a quello che è l'assetto fondamentale della nostra democrazia, non solo della nostra Costituzione, quindi la garanzia dell'equilibrio fra i poteri e la tutela dei diritti dei cittadini. Alla fine, secondo lei, si riuscirà a trovare un accordo sulla legge elettorale? Guardi, questo ovviamente non posso saperlo io. Noi ci saremmo augurati fin dall'inizio che questa legge elettorale, che ricalca molti dei vizi di legittimità già dichiarati incostituzionali dalla Corte, e si parla di vizi del Porcellum, non fosse stata imposta al Parlamento con la fiducia. Quindi le sembra difficile? Sicuramente non cambierà prima della riforma. Beh, anzi, io credo, certo, che se dovesse cambiare, cambierà proprio perché potrà vincere il no. Sì o no? Beh, Pietrangio, che ci fai ascoltare stamattina? Eccola. Tutto uno spreco di colori oggi in metropolitana, e tutti i pezzi tenuti insieme dai sospiri di passione e di sentimenti incendiati. Ha telefonato Pio XIII, il giovane papa di Paolo Sorrentino ha voluto questo brano da dedicare a Valentina, con una dedica. Ma lo prendiamo il maggiolone? Il maggiore col padre, la Valentina. Stamattina. Però non fa ascolti. Senti, hai allora, letto oggi letto Caverzano. La verità, Caverzano. Sì, senti Mario, c'hai la tua bolla? Sì. Grazie, hip hop. Allora. E tesoro non ti amo più. Caro Giovanni, sta succedendo un po' di tutto sui mercati. Ed è la rivoluzione Trump che comincia a dare i suoi effetti. Allora, Wall Street crede a Trump, crede al suo piano di investimenti per l'economia, 1.000 miliardi, alla riduzione delle tasse. Ieri ho visto una fantastica intervista di Rudy Giuliani in diretta ieri notte sul Wall Street Journal, dove Rudy Giuliani si preoccupava delle tasse al 35%. Al 35%. Dovrebbe fare il segretario di Stato. Sì, molto probabilmente, non è sicuro al 100%. No, no. Certo. Però è il candidato numero uno insieme a John Bolton. Il risultato è che l'indice Dow Jones continua a salire, i titoli della cara vecchia Old Economy sono tornati e il Nasdaq dei fenomeni high tech, quindi senza lavoro, certo, ma con molti utili, cala. Tutto qui uno direbbe sì, vabbè, invece ci riguarda da vicino, perché i mercati hanno cominciato a prezzare i titoli di Stato, quindi il tesoro, i rendimenti dei titoli del tesoro americano sono schizzati e ovviamente c'è stato un fenomeno globale. La stessa cosa è successa in Italia, con rendimenti molto più alti per il BTP, parecchio più alti, e lo spread che si sta allargando tra il BTP, insomma, e il qualche dubbio tedesco comincia a venire nel mercato sulla tenuta soprattutto, a mio avviso, dell'Europa con il suo debito e dell'Italia in particolare, che comunque ha il debito pubblico, come sapete, più terzo grande, terzo pubblico più grande del allora mondo. Tutto questo che cosa significa? Che i partiti che stanno guardando Trump, che stavano tranquilli, adesso è meglio che si agitino. Sì, è meglio che si agitino, perché questa è una sfida al loro status quo. Salamino. E no, e no, e no, ma adesso arriva il sì. Matteo Renzi sbarca oggi in Sicilia. La campagna per il referendum si fa sempre più rovente. I sondaggi, per quel che valgono, danno in vantaggio tra Palermo e Monreale, tra Ragusa e Ravanusa, il no, e perciò il premier novello canebardo oggi arriva e trasforma tutti i no in sì. Ma basta questo no! E no, e no, e no! Se ti pregherò. Adesso arriva il sì. Il Nino Bixio di Renzi, ovvero il potente ancorché forforoso Luca Lotti, è già in Sicilia da più giorni. Lui è accompagnato da Totò Cardinale, ex ministro delle telecomunicazioni, nonché regista di tutti gli equilibri delicatissimi, e come gatto e come volpe stanno preparando i dettagli per il trionfo oggi di Matteo Renzi nell'isola, che è ancora preda di Rosario Crocetta, il presidente, lo ricorderai, Giovanni, amato da Massimo Giletti, e basta più. Basta, dai, povero Giletti. L'ha fatto. L'ha intervistato due volte. Due volte, quattro volte, no, sette volte, 87 volte, è sempre là, insomma. Ma Crocetto, che nel frattempo ha assunto alla regione di già oltre 1.000 errotti dirigenti, altri 30 giusto ieri, è un convinto sostenitore del sì. Ora, Renzi, parliamoci chiaro, avrebbe tanto voluto che passasse col no, tanto è consapevole della sciagurata adesione, perché, lo sai, è stata valutata, caro Giovanni, peggio dell'endorsement di Obama, su cui ha pagato pegno Cameron dopo il Brexit, per non dire della Clinton. E quindi no, no e ancora no, ma adesso arriva il sì. Sapete cos'è successo? A Siracusa, nelle strade che portano al teatro di 1200 posti, ieri sono saltate le fognature. Hanno dovuto lavorare alacremente gli operai per restituire alla Roma dei limoni un angolo altrimenti travolto da un precipitato organico d'Olezzo e bombolette. Insomma, anche questo è un segnale. Crocetta ha rinnovato il suo sì e Luca Lotti, novello Bixio, come Vespasiano, come l'imperatore Vespasiano, ha detto rassegnato il suo appoggio non olet. Profumi! Vabbè, Mario, dai, ancora una bolla. Sì, sto sempre in America, guarda. Sempre in America. Sì. Allora, questi sono i Ramones. Donald Trump ha dichiarato di voler espellere 3 milioni di clandestini e la reazione è stata: oh, ma vi rendete conto di quanto è razzista, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, ho preso i conti fatti dalla Homeland Security ieri, mi sono messo là con la calcolatrice. Ok, infatti conto. 2,8 milioni di espulsioni fatte da Obama. Beh, quindi insomma, stiamo lì, fanno pari. E gli mancano due fanno anni. Pari. E gli mancano due anni perché Obama è conteggiato fino al 2014, non ci sono ancora i dati degli ultimi due. Quindi per adeguarsi al democratico e aspirare al premio Nobel, mi sa che Trump deve espellere di più. Molto probabilmente. È come il famoso muro. Sì, è come Messico. Il famoso muro in Messico che dice: oh, vuol fare il muro in Messico. Quello aveva già fatto Clinton. Nel 94. Clinton. Bene. Com'è bella la realtà. La realtà è meglio. 800240024 per gli sms, 349-238-6666 per questi sono gli sms, l'altra era il numero del telefono. Vabbè, uno si sbaglia. Pubblicità. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Mix 24. Il 28 dicembre del 1908 la terra trema a Messina. Il sisma raggiunge il decimo grado della scala Mercalli. La città viene rasa al suolo. Alle 5:20 la terra ha il moto sussultorio e il moto ondulatorio. Quindi prima sradica e poi abbatte. E poi c'è quello che ora si chiamerebbe lo tsunami. Il mare rigurgitò di cadaveri. Il numero delle vittime è altissimo. Messina perde 80.000 abitanti. Il 6 maggio del 76 è la volta del Friuli. La scossa dura 50 secondi, un breve ma lunghissimo lasso di tempo che causa danni gravissimi. I morti sono 1.000. Alle 19.35 del 23 novembre dell'80, una scossa di 90 secondi devasta l'Irpinia. 2.914 morti. I soccorsi tardano ad arrivare. E io mi ricordo il brivido provato quando, arrivando a Sant'Angelo, non c'era più niente. Tutti morti, gli amici d'infanzia, i bambini e i medici dell'ospedale, i parenti, i conoscenti. Cambia tutto. Cambia tutto, peggio di un bombardamento. Quello dell'Irpinia diventa uno dei peggiori esempi di ricostruzione post-sismica italiana. Ma la lista dei terremoti che hanno colpito il nostro paese, uno dei più esposti al rischio sismico del Mediterraneo, si è allungata negli ultimi anni. San Giuliano di Puglia nel 2002, L'Aquila nel 2009, Modena e Ferrara nel 2012 e ultimo il terremoto di Amatrice, di Accumoli, di Norcia, che ancora fa tremare i comuni del centro Italia. Poco dunque il racconto dei tre terremoti di Messina, del Friuli, dell'Irpinia, una puntata dedicata alle vittime di oggi e al ricordo di quelle di ieri. E canzoniere Pietrangelo. Cresci e divieni foresta immensa, un più fervido mondo, tutto sbocciato di fiorenti gemme, tu linguaggio degli amanti, sì, di questa terra, la favella. 800240024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Intanto col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Nature, ottobre 2016. Evidenza per un limite della durata della vita. L'aspettativa di vita è clamorosamente aumentata dal XIX secolo, con una riduzione della mortalità nelle età più avanzate. Oggi moltissimi arrivano a 80 anni e più, e prima arrivavano magari anche a 80 anni, ma la morte era questione di pochissimo tempo, di mesi o al massimo di 1-2 anni. Adesso si arriva ad 80 anni e si continua a vivere. E c'è stato un conseguente aumento del tempo della morte, con il record della francese Calment, che è morta a 122 anni negli anni 90. Ora, l'aspettativa di vita è flessibile in molte specie animali, dipendendo dalle condizioni in cui vivono e magari da interventi genetici o farmacologici. quanto è flessibile la durata della vita dell'uomo. Cioè, pensiamo di superare i 122 anni della Calment degli anni 90 e arrivare a 150, 200? Certamente c'è stato un aumento in questo senso della durata massima della vita e in Svezia, dove ci si può basare su archivi e dati affidabili, c'è stato un massimo di vita, di sopravvivenza nel 1860 di 101 anni, mentre invece si è arrivati a 108 nel 1990. Gli autori che hanno fatto, hanno analizzato, incrociato, lavorato su un mucchio di dati, archivi e demografie varie e concludono che c'è una causa biologica che impatta sulla durata della vita della nostra specie e quindi la flessibilità la escludono. I 122 anni della Calment probabilmente sono il limite massimo e quello che si è visto, oggi al mondo ci sono svariate centinaia di migliaia di centenari, mentre invece i supercentenari, cioè i 100 decenni, sono poche centinaia, che il nostro limite, arriveremo qualcuno a 120-122 anni, ma probabilmente molti arriveranno a 100, ma subito dopo molto pochi. Vabbè, mi sembra già abbastanza. Intanto tanti auguri a proposito di età, tanti auguri a Franco Schipani che oggi è il suo compleanno. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone dedicata a chi ha l'audacia di prediligere, onorare e favorire spudoratamente. Don Marino Barreto, La più bella del mondo. Tu sei per me la più bella del mondo, è un amore profondo, mi lega a te, tu sei per me una caravandina, primavera divina, per il mio cuore. Profundo, mi legate.